Sì, buongiorno a voi, buongiorno ancora una volta ai nostri ascoltatori. Sì, il titolo Alitalia è entrato in contrattazione, a dir la verità, per pochissimi minuti questa mattina, poco dopo le 9:15, ed è subito stato sospeso per eccesso di rialzo. In questo momento il rialzo teorico, almeno per quanto riguarda i terminali degli analisti, è di circa il 20%, quindi si attende se sarà poi possibile riammetterlo alle contrattazioni. Per quanto riguarda tutta la vicenda, ricordiamo che oggi è previsto un consiglio di amministrazione della ex compagnia di bandiera per valutare l'esito dell'incontro tra sindacati e Air France di ieri. Ricordiamo che venerdì nuovo incontro, e già domani sera è possibile che sarà presentato questo nuovo piano che metterà a punto Jean-Cyril Spinetta. Si attendono ovviamente nuove aperture che già sono state considerate in qualche modo un primo passo da parte dei sindacati. Per quanto riguarda la politica, il ministro dell'economia Tommaso Padoa-Schioppa riferirà mercoledì prossimo alle commissioni congiunte di attività produttive, trasporti e bilancio della Camera, quindi bisognerà aspettare qualche giorno per sapere quanto riferirà il ministro dell'economia. Grazie Valeria De Rosa. Nel frattempo sulla questione Alitalia si è espresso anche il presidente di Confindustria Montezemolo, sentiamolo. Io del caso Alitalia non voglio parlare, perché purtroppo, e lo dico così con una certa amarezza, è diventato un tema di campagna elettorale, quindi non ne voglio parlare, anche perché i problemi dell'Alitalia vengono da molto lontano. Sì, è importante che vadano in giro per il possano andare in giro per il mondo partendo dagli aeroporti giusti, con compagnie competitive, e io credo che il mercato, la compagnia di bandiera si basa sul mercato. Noi sposiamo la concorrenza, non sposiamo né i mercati chiusi né tantomeno il corporativismo.